Adesso il cambio della console, uno dei maggiori esponenti della musica elettronica nel mondo. Assisterete a un live performance, il che vuol dire senza dischi, il tutto generato da strumenti elettronici. Un grande artista internazionale. Questa notte in Kamasutra ospitiamo Mr. DJ Pascal Arbez, in arte Vitalik. Ci vogliono le mani, ci vogliono le mani per l'ospite, grazie. Fatevi sentire il calore del Kama Sutra. Vitalik! International Artist, il Kama Sutra. Vitalik Sound e Vitalik Music, ma che la musica fa stica tracciole. Bumble. Giulio! Della musica elettronica Viciale. is the sound of Vitalik, international artist in Kamasutra. Se dovete fare l'applauso, fatelo tutti! The Wizard of the Electronic Sound Music. Pascal Arbert, Vitali! We'll be right back. Che storia, ragazzi. Saluto a Sandro. È proprio ora, il momento delle mani. Date soddisfazione a Vitali! Così, più su! Anche questo è bravo davvero, eh! Saluto al Garbo Bola, vai Saturnino, ciao Saturnino, è con noi. Ma ma questo viaggio libero. Artista internazionale in Kama Sutra, tutto generato sul momento, live, è da paura, Vitali! Attention please. fateli sentire quelle mani. Devi sentire! We'll be right back. saluto ai miei fratelli di Chioggia, ragazzi. Vicione! State assistendo a qualcosa di irripetibile. Le sue live performance sono uniche. Non è un programma registrato, è tutto live. Vicione! remember. Easy to forget the games you're playing, you soon regret, because the rules change along with the names. Go on with your games, you're a dime a dozen. This week it's you, last week it was your cousin. Turn cold as your life amounts to nothing. One night stand and you're all in love from catching feelings. No one knows what the deal is with you, not even you. Easy to catch, hard to get, hard to remember. Easy to forget the games you're playing, you soon regret, because the rules change along with the names. Go on with your games, you're a dime a dozen. This week. Allora, giù le mani! Arriverà anche la rock. Flash. sì, che storia! Questa notte in Kamasutra, International Artist, Lee Charlie! Fatevi sentire! Guitar for me. leather jacket. Turn on the amplifier and I'll turn on the struts. Put your leather jacket. Turn on the amplifier and I'll turn on the struts. No guitars, no struts, no leather, no fun. No guitars, no struts, no leather, no fun. No guitars, no struts, no leather, no fun. No guitars, no struts, no leather, no fun. Please, play the guitar, Johnny. Play the guitar for me. Storia Vitali. Questa è un'altra produzione di Vitali, Vitali Production. Two, two, le mani! Vola, vola, vola! We'll be right back. Signore e signori, un applauso, Viciale! Però se ne volete ancora, ci vuole un invito, ci vuole un incitamento per Viciale. Attenzione, attenzione. Lo mettiamo noi allora. Non lo so. Non vi ho sentito urlare. Viciale! Extended Performer. Extended Performance. Only for Kama Sutra. Only for Italy. Grazie! grazie Viciali, un applauso, ma di quelli come veri, di quelli veri, grazie Viciali al Kamasutra, thank you very much, thank you so much.